Combricola. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta... Chican sinistra, destra. E signori, alzatevi in piedi ed applaudite il fenomeno. Max Verstappen, 18 anni, vince il suo primo Gran Premio della sua giovane storia di Formula 1. Incredibile, impressionante. Signori, oggi stiamo assistendo alla storia di questo sport. Alla storia di questo sport. Sono tanti tempi qui allo stadio per aspettare l'ultimo saluto, per me è un onore perché tutti i risultati che ho fatto con l'Udinese l'ho fatto non solo io, l'ho fatto con la società, con i miei compagni di squadra, ma credo anche per i nostri tifosi, perché oggi sono stati fantastici per me, per la mia famiglia, e le voglio ringraziare tutti i tifosi dell'Udinese. Che palla Rispoli, cioè che non lo serve, Rispoli deve stare attento all'offside, ci riesce. Rispoli, il cross sul secondo palo, Gilardino, al 19, suona il violino, suona il violino. Il finale mi sa che rimane pure dentro il cuore, perché come ho già detto, questa emozione che si... Di Coppa Italia contro la Roma. Sì, sì, quello si vede in campo e fuori in spogliatoio, quello veramente è spettacolare. Duncan Miro, in nome degli appassionati di calcio. Grazie a voi. Grazie. Beh, ieri qualcuno l'abbiamo vista, ne abbiamo viste anche altre, ad esempio nei tuffi abbiamo sentito questa copertina, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore. La vittoria di Verstappen, il bimbo, 18 anni, 7 mesi e un pugno di giorni, 15-16, più giovane vincitore di un gran premio di Formula 1, abbiamo sentito due grandi vecchi che si ritirano come Di Natale e Miro Klose, abbiamo sentito l'estratto del gol di Gilardino e quindi della salvezza del Palermo, che onestamente non era difficile da pronosticare. Poi oggi ci sono altre notizie, come ad esempio, e stiamo sulla cronaca, quella di Antonio Conte assolto dal GUP di Cremona dall'accusa di frode sportiva per la presunta combinia di Nolef e Siena, perché... Dice il giudice, il fatto non ha commesso il fatto, non ha dato il benestare alla presunta combina di questa partita, e con Conte, che può andare dunque sereno agli europei e poi in Inghilterra, assolto anche Angelo Alessio. Abbiamo sempre di questa mattina, sto sulla cronaca, un'altra notizia che riguarda il mercato, non quello del calcio ma quello delle moto. Iannone va alla Suzuki, Dovizioso resta la Ducati con Lorenzo, Pedrosa resta la Honda, Vignales va alla Yamaha. È praticamente tutto ufficiale. 800240024, Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Molto bene, un sacco di cose di cui parlare, eh? Campionato finito, verdetti, insomma, quelli che ci si attendeva, e adesso guardiamo verso un europeo non semplice per l'Azzurro Italia, nonostante la soluzione di Conte. Sicuramente, però insomma è stato un bel weekend, mi ricollego a quello che dicevi tu qualche giorno fa, insomma la boccata d'aria pulita c'è stata secondo me anche ieri, io ho seguito Palermo-Verona e mi è sembrata una partita normale, seria. Poi sarò ingenuo io, non lo so, sicuramente negli ultimi 3-4 minuti il Verona non ha avuto l'ardore di attaccare a caccia il gol del 3-3, però complessivamente mi sembra che la partita l'abbia fatta, è stata anche una partita nervosa in alcune sue fasi, quindi francamente a me è piaciuta. A me è piaciuta, mi è sembrata una partita vera. E per quanto riguarda poi ovviamente le storie, tante storie di questo weekend, appunto qualche lacrimone, penso a Di Natale, penso a Klose, Toni ce li siamo fatti la settimana prima, Abbiati. Insomma, è in queste circostanze che il calcio si ricorda del suo aspetto, se vogliamo, più romantico e più profondo. E poi insomma mi sembra che ci siano dei segnali positivi. La sentenza di oggi, ovviamente le sentenze non, non si discutono, si accettano, però sicuramente è una buona notizia per Conte e per la nazionale italiana, esatto, era attesa perché... appunto prima dell'europeo, tra l'altro mi sembra stasera ci sarà il primo listone dei convocati di Antonio Conte, che quindi potrà iniziare questa avventura come d'altra parte auspicava, senza alcuna spada di Damocle sopra la testa, e questo è certamente una buona notizia, non c'è dubbio su questo punto. Tu hai commentato la Juventus, altra notizia di giornata, questa non è ufficiale, riguarda il mercato non delle moto ma del calcio, Pjanic alla Juventus, come lo vedresti? Beh, la voce si rincorre, Sport Mediaset l'ha scritto sabato, poi c'è stato un po' di anche di imbarazzo, una smentita, però insomma mi sembra, sai, come tutti i giocatori che hanno una clausola, poi alla fine se uno paga la clausola quello è, insomma non c'è neanche, certamente ci deve essere il gradimento del giocatore, credo che Paratici si stia muovendo in questo senso, beh insomma Pjanic c'è un gran colpo, non è che c'è molto a discutere, è un gran colpo per una squadra che deve migliorare delle piccole cose, perché è già un bel pezzo avanti, quindi sarebbe un ulteriore grande passaggio. Credo che anche Sanchez dell'Arsenal sia un giocatore che rientri può interessare. Cavani, insomma la Juve, come dicevi tu giustamente ieri, ha preso un bel vantaggio, quindi adesso vantaggio ha la possibilità di spazio e tempo, di potersi concentrare, è un po' come l'Inter ai tempi di Mourinho, no? Ti puoi concentrare soltanto su quelle due o tre cose che ti servono di anno in anno per rinnovare, programmando con i soldi che non ti mancano, perché vincere aiuta a vincere e aiuta a incassare soldi, quindi... e aiuta anche ad acquistare in qualche modo tempo. Salutiamo insieme Serse Cosmi. Volentieri, come va? Ciao mister. Salve, buon pomeriggio a tutti. Senti, dove sei? A Trapani. Dove? No, che a Trapani, in casa. Temperatura? No, la domanda era quella. Temperatura non caldissima, però un cielo meraviglioso. Mamma mia, ma Favignana ci va ogni tanto, sì? Sì, ma da adesso in poi, insomma, diciamo così, da giugno in poi. Però c'è gli altri impegni, ti segnalo che hai altri impegni. Adesso di impegni ne ha. Adesso viene il bello. Adesso sì. Viene il bello. Ne parliamo tra un attimo, subito dopo il traffico. Tutti convocati. Convocati. Allora, il bello deve cominciare per Serse Cosmi e per il Trapani, diceva giustamente Pierluigi Pardo. Il Palermo è rimasto in Serie A, c'è un altro pezzettino di Sicilia che sogna qualcosa di incredibile, Serse. Sì, noi stiamo vivendo non da questi ultimi giorni, ma diciamo così da quasi tutto il giorno di ritorno, un periodo meraviglioso. Un periodo meraviglioso nei risultati, ma soprattutto nella maniera come sono stati ottenuti e per l'entusiasmo che si è creato inevitabilmente intorno a questo gruppo di ragazzi, perché, ripeto, il pubblico sa riconoscere molto bene i risultati e spesso è un pochino ostaggio dei risultati, però credo che il pubblico sappia riconoscere molto meglio, anche molto di più, quelli che sono i comportamenti, quello che mette un giocatore in campo, e devo dire che la nostra squadra insieme alla società stanno facendo veramente delle cose sensazionali sotto quel punto di vista. Cosenza già fatta, Cagliari già fatta e Crotone. Per la gioia di Lotito magari anche il Trapani, Pardo. Ma io allora devo dire una cosa che spero verrà accettata da tutti con serenità. Io tifo per le trasferte quando mi chiedono, ecco. Trapani che te lo dico, faccio, Trapani sarebbe una roba, una magia, ecco, andare lì veramente, magari anche a settembre, però questa è una visione, se vuoi, turistica della vita, e quindi mi autodenuncio. No, sta facendo un grande lavoro il mister, insomma, la carriera di Serse Cosmi è una carriera piena di moltissime luci, ovviamente di qualche ombra, perché non è che tutti gli anni ha fatto benissimo, però quando è riuscito a creare, e non è la prima volta che succede, quel tipo di magia, quel tipo di simbiosi con l'ambiente e con la squadra, insomma, Cosmi diventa un allenatore che fa la differenza, questo credo sia oggettivo ed è scritto nei libri, e appunto questo volevo chiedergli, che cos'è che sta succedendo, perché mi sembra, insomma, un'ottima annata come in quel vecchio film, no? Indipendentemente da come andrà a finire, e che cosa succede, di che cosa hai bisogno, quando è che percepisci che veramente si crea una magia di un certo tipo e le cose, e 2 più 2 non fa 4 ma fa 5, fa 6, fa 7, nel senso che la somma delle qualità individuali diventa qualcosa di più. Ma guarda Pierluigi, io mi sono sempre, ho sempre denunciato questo, che considero per un allenatore un limite, quindi non una qualità, quella di potersi esprimere in un contesto dove le situazioni siano più semplici, normali, dove si dà molto valore a quelli che sono i rapporti umani, dove l'allenatore non viene preso in considerazione solo ed esclusivamente per alcune cose, ma anche poterci dialogare, poter parlare anche di altro, dove c'è la gente che non ti stimi, però se metti in campo una squadra che esprime certi comportamenti possa addirittura anche volerti bene, dove ci sono tutte queste cose che normalmente, cioè dovrebbero essere la normalità del calcio. Ho tralasciato non casualmente per ultimo una componente che è fondamentale, la società. La società, noi spesso intendiamo la società come qualcosa di astratto, la società è composta da uomini, tutte le società di calcio in generale, ma di calcio nello specifico, sono composte da uomini. Io quando trovo dei uomini che sanno parlare non solo di calcio, ma sanno parlare al cuore, sanno parlare in una certa maniera, ripeto, riesco, e sottolineo ancora una volta un limite, ad esprimermi molto di più di quello che è un rapporto normale, dove si cercano dei risultati però utilizzando delle situazioni che non fanno parte proprio del mio carattere, è solo questo. E certo. Quindi Perugia, Arezzo, Lecce, in parte Brescia, insomma, voglio dire, non a caso non sono state le mie tappe migliori, e non a caso quando ho iniziato una stagione o quando si sono creati dei cicli. E metto anche Genova. Serse, che campionato, per finire, che campionato hai visto al piano di sopra? Ma intanto faccio una considerazione: oggi noi abbiamo 70 punti, con 71 il Frosinone l'anno passato fu promosso direttamente in Serie A. Quest'anno sì. Con 71 il rischio di arrivare quarto, quinto, no, il rischio è la certezza di arrivare quarto, quinto, insomma, voglio dire. Quindi è un campionato sparato in alto, come si dice, con delle squadre forti, costruite per la promozione diretta. Che tipo più paura? Cioè, su ma chi fa... Ognuna ha un qualcosa che devi temere. Ma ci sono delle squadre che magari potenzialmente sono meno forti di altre, però per quello che ci riguarda potremmo soffrire di più. Quindi, non c'è veramente la certezza di una squadra piuttosto di un'altra. Dico il Pescara, secondo me, è la squadra che ha più valori globali, insomma, voglio dire. Quindi c'è cioè, la tradizione, pubblico, allenatore, espressione del gioco, potenzialità offensive enormi. Quindi rispetto alle altre, devo essere sincero, quella che a mio giudizio ha qualcosa in più, ripeto, di partenza. Poi sapete che playoff sono tutt'altra cosa. Senti, Totti che deve fare? Pare che adesso il contratto ci sia, no? Guarda, io avevo detto un giorno, avevo detto che uno dei miei tanti sogni era quello di poter allenare Totti almeno un giorno, insomma, voglio dire. Totti al Trapani in Serie A, mica male, no? Visto che non credo che sia intenzionato a venire a Trapani, insomma, vorrei che seguitasse all'infinito, perché vorrebbe farmi vivere, insomma, anche a me. È una maniera per poter vivere qualcosa di, ripeto, che è un sogno, però al di là della battuta. Non lo so, io credo che debba continuare, ma non per valutarlo per quello che farà o che non farà. Però io ho visto cose ancora oggi da giocatore decisivo. Il passaggio, molti hanno visto i gol, ma il passaggio sul gol di Pjanic, quello lo fa un giocatore non in attività, lo fa un giocatore che è al massimo delle proprie potenzialità. E è un passaggio che, non dico è passato inosservato, però non è stato esaltato come per esempio il gol. No, Spalletti ha detto il gol l'ha fatto Pjanic, va bene, il passaggio di Totti, però il gol l'ha fatto Pjanic, quindi fate i bravi. Grazie Serse, in bocca al lupo. Grazie a voi. A presto. Allora, mi è venuta una voglia di Calamignola, che è una caletta che sta al largo di Lehmann. Solo a te. Mi è venuta una voglia. A me no. Mamma mia. Ma niente. C'è proprio una botta di Calamignola. Senti, aspetta, sentiamo storie di Bomber. Ce n'è uno in linea a cui stiamo per fare gli auguri. Busquets in qualche modo verso Messi, verticalmente Suarez, carambola, cross in mezzo a cercare Suarez, 2-1 Barça, la cambia lui, gol numero 45 in stagione, Suarez, il centravanti. Higuain la mette giù, cerca lo spazio per il destro, è pipita dal limite, ancora Higuain, la tiene, Higuain, prova Higuain, che gol ha fatto Higuain, straordinario, lo dice anche lui, mamma mia, lo dice anche Higuain, 2-0. Batte Marcelo, è molto esterno Ronaldo al volo di sinistro, che gol di Cristiano Ronaldo, che dice a tutti tranquilli, io sono qua, apre molto bene Thiago Motta per Di Maria al centro, Ibrahimovic alla conquista di Stamford Bridge, 2-1, eccolo il gol decisivo di Ibrahimovic. Potevamo mettere negli altri Lewandowski e compagnia, briscola, Neymar, Messi, però è stata la grande stagione e anche il duello da lontano tra Higuain e Suarez, ne abbiamo parlato tanto. Ciccio Graziani, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, un abbraccione. Vediamo se me la ricordo a memoria. Castellini da Nova Salvatori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici, giusto? C'era Santin. Vedi che non sono preparato, andavo a memoria. Salvatori, non c'era da Nova, c'era Santin da quella squadra. E comunque 40 anni oggi di quello scudetto, tanti auguri Ciccio. Beh, grazie di cuore, anche perché dopo quelle imprese non ce ne sono state altre. Siamo stati i primi a riportare grande entusiasmo dopo le gesta del grande Torino e quindi siamo contenti da una parte un po' rammaricati, perché in questi 40 anni speravamo da tifosi di rivedere una giornata, di rivivere una giornata bella come quella che abbiamo vissuto noi. Serviva un altro Leicester. Senti Ciccio, stiamo facendo i conti un tanto al chilo, è ovvio che è un gioco, però bomber, il più grande bomber di questa stagione, io dico Higuain. Suarez mi piace da morire, forse in valore assoluto è pure più forte di Higuain, però 36 gol nel campionato italiano sono una cosa inaudita. No, io sono convinto che invece non è Suarez non è più forte di Higuain, perché io quest'anno Higuain gli ho visto fare nel suo repertorio gol in tutte le maniere, di testa, di tacco, di sinistro, di ginocchio, di petto, di tutto. E la verità è un'altra, il campionato italiano è molto più difficoltoso, più difficile di quello spagnolo per certi versi, e poi soprattutto lui gioca con dei campioni vicini che spesso gli dicono fai go tu. Io ho visto un paio di volte che Neymar in altre circostanze, o Messi, avrebbe potuto calciare in porta per fare gol, loro invece fanno finta di calciare, la mettono indietro, arriva Suarez e fa gol. Quindi lui ha avuto il grande vantaggio di essere supportato da una squadra fantastica e da dei compagni di squadra meravigliosi, cosa che con tutto rispetto non ha Higuain, perché Calleion, Insigne e Amsic e Allan non sono paragonabili ai giocatori del Barcellona. Quindi Higuain ha fatto un qualcosa di impensabile, guarda, veramente sono entusiasta di questo giocatore per quello che ho visto quest'anno, perché ho l'impressione che non lo rivedremo mai più. Sì. Mi tocco ferro, tocco Beh, ferro. Però ci sono voluti 66 anni. Quindi però ci sono voluti 66 anni, e poi considera che questo ragazzo ha perso addirittura anche 3 partite, certo, con la squalifica. Quindi certo, magari chissà, potevano diventare anche qualcuno in più. Però quest'anno è stato fantastico. Io voto Higuain tutto sempre. Gradino più alto del podio degli attaccanti al mondo oggi, Pierluigi. Sì, non c'è dubbio. Sì, assolutamente. Insomma, io credo che che sia molto difficile, è tutto sommato anche abbastanza inutile, anche se il giochino è divertente, stabilire fra chi vince quest'anno la scarpa d'oro, cioè Suarez il secondo, che è un grandissimo piazzamento, come Higuain sia più forte in questo momento. Nella clip musicale abbiamo sentito dentro anche gente come Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, che secondo me ha caratteristiche anche un po' diverse, e quei due sono proprio i centravanti nel loro massimo. È la migliore stagione di Higuain, sicuramente il campionato italiano è un campionato che sta al di sotto, come valori tecnici, a quello spagnolo, però sono abbastanza convinto che dal punto di vista di un attaccante non sia un campionato più facile di quello spagnolo. Quindi, secondo me i 36 gol di Higuain pesano. Poi in questo momento, francamente, dire che Higuaín sia più forte di Suarez mi fa pensare di essere un po' provinciale. Cioè, comunque noi negli ultimi anni purtroppo con gli spagnoli perdiamo, Suarez ha fatto una stagione senza precedenti e secondo me bisogna accettare l'idea che lui sia la terza serie numero uno e Higuaín la numero due. Però non ne sono sicuro al 100%, perché ripeto, noi siamo più deboli sicuramente degli spagnoli, ma come sottolineava anche ieri Filippo Maria Ricci, il campionato spagnolo è un campionato dove spesso per mentalità le squadre sì. se la provano a giocare. E quindi si va su risultati eclatanti. Di fatto, esatto, ci sono risultati più eclatanti perché ci sono complessivamente più spazi, quindi forse dal punto di vista della difficoltà per un attaccante il nostro campionato non è più semplice di quello spagnolo. No, ne sono convinto. Ciccio, un'ultima cosa, sarebbe sensato in questo momento vendere Higuaín? Ma di fronte a una proposta indecente io fossi il Napoli ci penserei, però se devo guardare 29 anni e qui si tratta di una scelta quasi però il Napoli in questo vita, momento è un bivio, è continuare ad essere competitivo e cominciare a vincere qualcosa, perché qui il paradosso è anche uno avere un giocatore che ti fa 36 gol 37 gol e non vinci nulla, c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Se vedi i numeri di Higuaín e poi dici ma questa squadra ha vinto qualcosa con un giocatore così, no, e allora c'è qualcosa che non quadra. Allora il Napoli, guardando al futuro, dovrebbe tenere Higuaín sempre e rinforzare questa rosa di squadra per essere competitiva, per vincere magari il prossimo anno lo scudetto e per essere competitiva in Champions. Però e qui c'è questo punto interrogativo, bisognerà capire e vedere cosa ne pensa il presidente De Laurentiis e soprattutto se arriveranno delle proposte indecenti, perché in questo momento Higuaín è in vetrina ed è un quadro meraviglioso, per cui c'è la possibilità che qualcuno si presenti non con i 94, i 97 milioni di euro, con qualcosa di meno, ma a quel punto no. Io voglio vedere che cosa fa il Napoli. Certo. Grazie Ciccio. Ciao, un abbraccio. Ciao, a tutti, un abbraccio, auguri ancora per questo anniversario 40 anni del Toro Scudettato. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito 800240024 per intervenire. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar Giannino e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. Ascoltaci anche in digital. Si ricomincia. Convocati. Pierluigi Pardo, parliamo con gli ascoltatori? Vai. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono un tifoso del Palermo. Sì. E chiamo perché ieri le ho sentito fare la seguente affermazione. Il Palermo probabilmente si salverà, ma sarà una salvezza sportivamente immeritata. Probabilmente mi è sfuggito qualche illecito sportivo, qualche conversazione di partite acquistate. No, non lo so. Mi è sfuggito assolutamente no. Ma le pare normale salvarsi dopo aver cambiato un plottone di allenatori? E che cosa c'entra questo con lo sport? Anche a maggior ragione. Cosa c'entra questo con lo sport? Beh, qualcosa c'entra. Ma lo dica lei, sul campo è stata fatta sul campo la salvezza assolutamente. Io credo che però questo non sia il modo corretto di gestire una società calcistica. Credo che il Palermo si sia complicato tremendamente la vita. È una squadra che poteva raggiungere questo obiettivo sportivo molto prima. E non credo sia una cosa sportivamente e gestionalmente normale cambiare 9 allenatori in una stagione, semplicemente questo. Poi nessuno dice che il Palermo ha rubato qualcosa. Il portatore di pace, credo che l'equivoco nasca da questo, cioè nasce dal fatto, è chiaro che non c'è stato nessun illecito sportivo, i giocatori del Palermo se la sono meritata e basta, è fine. Detto questo, la valutazione è un po' diversa secondo me, cioè sicuramente delle due, dobbiamo dare un voto alle due società, sicuramente insomma il Carpi ha fatto le cose molto meglio del Palermo, ecco. Questo non credo che ci siano dubbi. Il Palermo si è complicato la vita e sicuramente l'idea che, che poi alla fine si sia salvata una squadra che ha cambiato così tanto e che ha sbagliato anche così tanto, magari un po' meno bella, sì, però sì. Insomma, semplicemente questo, però semplicemente è chiaro questo. Che dal punto di vista sportivo la salvezza del Palermo è meritatissima, al di là del discorso che facevamo prima insomma, sulle trasferte. Dio benedica Santa Rosalia e la pasta coi ricci, ma al di là di questo è sempre un piacere venire, è bello andare anche a Modena, ci mancherebbe altro, ma al di là delle battute è una grande ricchezza per il calcio italiano che una città come Palermo rimanga in Serie A. Questo è indiscutibile, ed è un discorso indiscutibile. L'unica cosa che possiamo augurarci è quello di un futuro più normale, di maggiore normalità, Pierluigi, per il Palermo, per i suoi tifosi, per la squadra, per i giocatori e per chi avrà l'avventura di andare ad allenare quella squadra, non so se Ballardini di nuovo o qualcun altro, semplicemente questo. Sì, sì, ma assolutamente, ma questo non ci sono assolutamente dubbi, insomma io penso che sia veramente una stagione da chiudere. Io spero che Zamparini abbia imparato, mentre qua tanto urlano, ma che gli frega. Spero che Zamparini abbia imparato che insomma, d'accordo l'enfasi, qualche volta il cambio in panchina è anche utile, l'ultimo cambio in panchina ha funzionato. Sì, ma no, perché... Però che poteva fare probabilmente con molta più tranquillità, risparmiando anche un sacco di soldi in allenatori. Questo. Certo. Ma penso che lo sappia, dai. Mi piace pensare certo. Che. Anche il Carpi non è immune dal peccato. Sappiamo che è stato mandato via Castore, poi è stato ripreso. Magari senza quel cambio avrebbe avuto quei punti in più che potevano essere vitali per la salvezza. Però tant'è. Alberto, buongiorno. Buongiorno, io sono tifoso del Carpi. Allora, al di là del fatto che la Serie B l'abbiamo, come dire, guadagnata con la Lazio 10 giorni fa. Sì, perdendo in casa in quel modo, sì. Due rigori sbagliati, certo. Ieri sera, secondo me, il secondo gol, cioè il gol di Maresca, il secondo gol del Palermo, è un po' da ufficio indagini, datelo vedere. Tre difensori del Verona, belle statuine, e il portiere che sviene. 2 minuti dopo ha fatto gol Girardino, però che ha fatto il cross nel fuorigioco di 1 metro. Volevo solo segnalare questo. Sì, è vero. Il fuorigioco sul 3-1 c'era. Io la partita l'ho vista, l'ho anche commentata per il canale della Serie A, e devo dire che mi è sembrata una partita vera. Cioè, voglio dire, se considerato che Verona non aveva nulla da chiedere, a me sembra che Verona se la sia giocata. E sull'1-0 reagisce, colpisce 2 pali, fa il gol dell'1-1 all'inizio del secondo tempo, poi fa il 3-2 a 6 minuti alla fine. Insomma, secondo me, se una squadra non vuole rompere le scatole, non ci si mette neanche in quella situazione lì. Quindi io devo dire che ho apprezzato l'atteggiamento del Verona, forse sarò ingenuo io, ma mi è sembrato invece un atteggiamento assolutamente ineccepibile e una partita vera, per certi versi anche una partita più nervosa di quello che poteva essere. Se mai Morganella fa una follia, fa incattivire così la partita. La decisione dell'arbitro è discutibile, perché mi sembra che il vero responsabile di quella situazione è Morganella. C'è il fuorigioco sul 3-1. Sul resto e sul comportamento del Verona invece, scusate, ma non ho molto da eccepire, anzi non ho niente da eccepire. Nel senso che mi è sembrato molto più dignitoso, al di là dei limiti tecnici. Ho commentato 2 partite in questo weekend, mi è sembrato molto meglio il Verona, che non aveva niente da chiedere della Sampdoria, per dirsi, sì, no? Sì, sì, eppure sì. Nessuno va a pensare che ci sia l'ufficio inchieste sulla Sampdoria che perde 5-0. No, ma sai la dietrologia in casi come siamo questo, un paese di dietrologi, è sempre dietro l'angolo quando si creano incroci di questo tipo, e questo incrocio, come abbiamo detto molte volte, è stato piuttosto perverso, inutile, e senza la colpa di nessuno, né del Palermo né del Verona, semplicemente del computer che ha stirato il calendario. Salvatore, buongiorno. Buongiorno amici miei. Sì. Parliamo tanto delle partite del campionato italiano, però ho chiesto, ora confermo, di una partita che ho visto qualche tempo fa, del meraviglioso Leicester di Ranieri contro lo Swansea di Guidolin. Insomma, anche quella non mi era sembrata il massimo quello dello Swansea non mi era sembrato il massimo dell'impegno. Insomma, è stata una partita che fosse stata giocata in Italia ne avremmo chiacchierato, come stiamo facendo ad esempio per Palermo Verona, e come da noi è inevitabile che sia. Salvatore, dica. Ah, volevo dire qualcosa riguardo Higuain. Sì. Ora, indubbiamente, è giusto quello che dice lei, signor Genta, che a quasi 29 anni sarebbe giusto, diciamo, tra virgolette, vendere Higuain. Però credo, da tifoso azzurro, che questo sia il momento di fare uno step, cioè rinunciare anche a milioni di euro, ma provare a, almeno l'anno prossimo, non so, riducendo la clausola, però è il momento di fare la squadra per vincere, perché secondo me se ci togliamo Higuain alla fine secondi, terzi, qualificazioni in Champions, però non si fa mai il salto di qualità, questa è la mia opinione. Beh, questa è un'opinione assolutamente condivisibile, nel senso che è chiaro che sarebbe meglio per il Napoli trattenere Higuain, però non dimentichiamo che ad esempio la Juventus l'anno scorso si è privata di Vidal utilizzando quei soldi per ricostruire in parte la squadra. È chiaro che se dovesse essere venduto Higuain non è che De Laurentiis si piglia i soldi e se li mette in saccoccia, li reinveste sulla squadra, e se sono tanti soldi può essere una base per ricostruire e rinforzare. Normalmente dalle nostre parti funziona così, no Pardo? Assolutamente sì. Io tante volte abbiamo citato gli esempi di cessioni che hanno portato alla gloria, dalla famoso caso Zidane, Ibrahimovic nell'Inter, insomma vendere bene oggi nel mercato, soprattutto in tempi diciamo di pacche abbastanza magre, è una delle chiavi più importanti per arrivare a vincere, quindi non è detto che sia per forza un impoverimento. Capisco il ragionamento dell'ascoltatore, questo è ovvio. No, ma è chiaro, questa è ovvio che è una strada percorribile, mi tengo Higuain, gli prolungo il contratto, anche Higuain, abbiamo detto molte volte, può fare una scelta di vita, rimango re simbolo di questa squadra che è da considerare una grande squadra europea, piuttosto che andare da un'altra parte, magari a giocarmi una maglia con i vari Lewandowski o Suarez o chi per esse, insomma, quindi potrebbe essere una scelta di vita molto ben remunerata dello stesso Higuain. Si tratta soltanto di una decisione da prendere, di una decisione strategica per lui e per il Napoli. Fermiamoci per il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Cerca Higuain in acrobazia. Higuain! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero, Mauri! 36, nessuno come lui! Ma non è mica vero! Ma è impossibile così! Il 36esimo così! La tripletta con questa giocata! Ma questo è un film! Beh, compagnone Adani, se la sono presa a cuore, Vabbè, ma giusto. momento storico. Sì. Il campionato dei record, da quello di Buffon a quello di Buffon di stasera tiki-taka, scusa, piccolo spazio, Buffon, pubblicità, sì. anche Tony? Grande. Anche Gallinari, anche Immobile, poi? Anche Totò Schillaci. E poi? Jake La Furia, Ubini, Telese. Senti, ma il sosia di Ranieri no? Però visto che insomma ha monetizzato la incredibile somiglianza con 26 conquiste femminili. Calcio fa miracoli. Prossimamente a Tiki Taka. Esatto, un bel tema. Peccato che finiamo stasera, perché sennò. Ma noi invece andiamo. Allora, prossimamente a tutti convocati, esatto. e poi avremo un altro momento promozionale per voi, perché ci hanno assegnato un ambitissimo riconoscimento. Sì. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, sono Riccardo da Spoleto. E ha un'incredibile somiglianza con? Non lo so, con Ranieri? Addirittura. Con Conte, no, mi dica lei. Non lo so, guardi, non me l'ha detto mai nessuno. Ah, mi ha detto mai nessuno. Allora, niente. Guardi, no, io poi complimenti, vi ringrazio per avermi convocato, sto a fare i complimenti per la trasmissione, è il minimo che si possa fare. Grazie. Quindi poi che sono abituato a fare al massimo, quindi a parte gli scherzi. No, io volevo che voi diceste sul caso Higuain le cose veramente come stanno, cioè, per quanto riguarda i gol, perché è vero, senza nulla togliere al grande Higuain, ma lui 36 gol da assegnati sul campionato a quante squadre? Beh, il campionato attuale ha 20 squadre, perché? Oh, esatto, ma il vecchio record era, mi sembra, 10 partite in meno. No, era, no, era 35 gol in 37 partite, Nordal. Ma comunque no, senza nulla togliere, per carità, però anche per, io sono juventino a Spoleto, diciamo, spiegherato, quindi per fare un po' abbassare anche l'orecchia ai tifosi napoletani, però bisogna dire, 6-7 partite indietro, cioè le stesse che ha giocato Norma, quanti gol ha segnati Higuain? Quindi il record, sì, il record è vero che ce l'ha, però riguardo al vecchio record... Ma ricorda che aveva fatto 35 partite in 37 gare, quindi il discorso non solo non funziona, ma anzi è un'ulteriore sottolineatura, perché Higuain ha fatto più di un gol a partita, Nord l'ha fatto 35 gol in 37 partite. Detto questo, voglio dire, ma anche se erano 31 le partite, cambiava qualcosa? Cioè, francamente mi sembra proprio un momento così dei giovani commercialisti italiani, ai quali facciamo un grande saluto perché sono fondamentali nella vita di tutti noi. Cioè, mi sembra un po' ragionieristica questa valutazione. Higuain ha fatto delle cose pazzesche quest'anno e si merita tutti i complimenti del mondo. Cioè, se noi non celebriamo Higuain, guardi, io le dico la verità, è un record storico su Pierluigi, ma non c'è niente da dire. Se non celebriamo Buffon per il record di quest'anno, bravo. Ma quando celebriamo qualcosa? Dobbiamo pensare? Poi, cioè... per carità, spesso mi faccio anche autocritica, siamo noi giornalisti sportivi, siamo pronti a dire eccezionale, formidabile, incredibile, stupendo, palo clamoroso, il palo è sempre clamoroso, quindi siamo tutti un po' malati di sensazionalismo, uh-huh. Però qui mi pare invece che sia proprio strametà. Qui parlano i fatti, dai, 37 gol nel campionato italiano è qualcosa che difficilmente verrà ripetuto esattamente come il titolo dell'Ester, comunque è un record destinato a durare moltissimi anni, non a caso quello precedente, insomma, se lo ricordano i nostri genitori, facciamo così. Daniele, buongiorno. Daniele? Daniele, non c'è. Sì, Antonio? Antonio sono, sì, mi senti? Antonio. Chi è? Antonio? Non è Daniele, è sicuro che non è Daniele? Sono Antonio, non mi Antonio, sento. Antonio. Più Antonio o più Daniele? Oh, più Antonio. Più Antonio, allora Antonio. Allora, innanzitutto quel simpaticone di Pardo volevo salutare, grande amico, e un consiglio, perché vedo ogni tanto la trasmissione e la... imporre la redazione meno ragazze immagine per la sua trasmissione, più tipo Capotondi, che almeno abbini la bellezza con la competenza. Cristiana è bravissima. Perché mettere Stangone lì, sì, uno guarda, quello che ci stanno a fare, cioè Melissa Satta e Company, ma chi deve impone la redazione? Mediaset, giudizio no? Strettamente no, tecnico del professor Antonio. No, ce l'impone nessuno. No, però sono d'accordo sulla Capotondi, che è una grande... oltre ad essere una bellissima ragazza, insomma, anche la Capotondi è una bellissima ragazza, è una bravissima attrice, ma è una grande, grande appassionata ed esperta di calcio. Sono d'accordo con lei, anche perché poi le dico la verità, negli ultimi anni non è raro trovare donne appassionate di calcio, sono sempre di più, e questo è uno degli effetti, secondo me, anche belli, se posso fare un po' di autopromozione, non mio, ma della TV in generale, della quantità di informazione che c'è sul calcio in giro, la possibilità di vedere tante partite, insomma, secondo me tanta gente si è appassionata negli ultimi anni, per cui io non la vedo così male. Poi so che c'è chi non ama lo spezzatino e va benissimo, però insomma a me sembra che negli ultimi anni anche le televisioni a pagamento certe volte abbiano creato dei momenti di grande aggregazione con i tifosi che si radunano nelle case per vedere le partite, insomma, secondo me è una cosa bella, una cosa positiva, quindi sono d'accordo con lei, viva la Capotondi. Senti Pierluigi, nel Ciao, salutarti. Convochiamola la Capotondi prima. Convochiamola, ma come no? Convochiamola. Grande tifosa, grande giocatrice, insomma. Pensaci tu. Senti, momento di autopromozione, l'Italian Sport Awards ci ha assegnato un premio molto ambito, giusto dalla sesta edizione, miglior programma radiofonico sportivo italiano. Ragazzi, momento di autocelebrazione. Ringraziamo lor signori e tutti quanti, tra l'altro. Signor Alfani, ma chi va a prenderlo? Andate voi, vado io? Come tu, facciamo? Ci mettiamo d'accordo. Ci mettiamo d'accordo. Fiuggi, Fiuggi, 23 maggio ore 20:30, serata di gala, e si alza la coppa. Va bene, alzala al cielo, capitano. Ciao Pierluigi. Ciao. Un abbraccio. Finisce qua, senza recupero, primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10:30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. You are a race winner, fantastic, what a great debut. What a debut, fantastic, great, great job. Thank you very much, Christian. E adesso piange e adesso ci tira fuori un lato umano che fino a questo momento non avevamo visto. Ero sulla posizione di manettino sbagliato e perciò avevo meno potenza di motore, però ero concentrato su dove era lui, l'ho visto arrivare e allora ho chiuso la porta ben in anticipo per fargli vedere che all'interno non ci lascio gli spazi per provare di passarmi, e lui l'ha provato comunque, che mi ha sorpreso. Non avrei pensato che lo prova comunque, e dopo di quello ci siamo ritrovati nella sabbia. Beh, la doppietta doveva essere un'altra, quella vera. Oggi lasciatemi dire che c'è un pochino più di positività, nel senso che oggi voglio essere la Ferrari e non la Mercedes, cioè, con rispetto, ma quelli che sono fermati oggi sono loro, noi andiamo avanti. Allora, ieri è nata una stellina di 18 anni, 7 mesi e 15 giorni, si chiama Verstappen, prima corsa da promosso in Red Bull, dopo la retrocessione di Fiat, questo è l'altro caso della settimana, Rosberg e Hamilton giocano all'autoscontro e i due della Ferrari, Raikkonen e Vettel, fanno i vassalli al nuovo giovane imperatore, non so se sia proprio così. Abbiamo sentito Verstappen e le sue lacrime all'interno dell'abitacolo, abbiamo sentito Rosberg, abbiamo sentito Maurizio Arriva Bene. E adesso sentiamo cosa dice Leo Turrini. Buongiorno maestro. Maestro, sarà lei. Allora, io vorrei subito dire una cosa, sgombriamo il campo dei equivoci. Verstappen ha preso tutto dalla mamma, perché io purtroppo c'ero. Ha preso tutto dalla mamma? Perché io c'ero quando il padre correva in Formula 1, sì, e posso assicurarti che non era esattamente un fuoriclasse, hai capito? Quindi evidentemente la mamma di Verstappen, quando lo portava all'asilo, poi alle elementari, eccetera, gli ha insegnato i rudimenti di guida, e siamo qui al cospetto di una storia che tu hai detto bene, straordinaria, insomma, no? Per venire in mente un po' Guerre Stellari, The Chosen One, il prescelto, no? Il prescelto. Sì, perché sono davvero, sai, almeno 3 anni che nell'ambiente si sente dire che questo Verstappen Junior è un piccolo fenomeno. Esatto, io ne parlavo un tempo fa con Luca Baldisservi, che è stato l'ingegnere di pista di Schumi per tanti anni in Ferrari, e lui mi aveva detto: guarda che Verstappen l'ho visto partecipare a un campionato in Florida 2 anni e mezzo fa, quindi non aveva nemmeno 16 anni ed è una cosa inverosimile da tanto che è forte. Quindi, per cui insomma hanno preso la palla al balzo, hanno preso il Kvyat al balzo, gli hanno detto: ascolta, hai fatto fin troppi casini, vai alla Toro Rosso, prendiamo il ragazzino, sì, e questo sale sulla macchina e vince. Qui c'è certamente la sorpresa, l'emozione, è un evento storico, hai detto prima tu, non mai uno così giovane ha vinto un gran premio. Però paradossalmente ce l'aspettavamo anche per quello che ho appena finito di dirti, perché è l'esplosione di una supernova, una nuova superstar annunciata, hai capito? Perché tutti nell'ambiente dicevano: ma questo è un predestinato. Che... adesso poi aggiungerò una cosa, come si dice, un caveat, per citare il latinorum tanto caro a Pardo. In Spagna poi c'ero anche quella volta lì, stessa pista, Barcellona, 4 anni fa, ha vinto il Gran Premio Pastor Maldonado, il mio amico Pastorone, rivelatosi uno dei più grandi sfasciacarrozze della storia della Formula 1. Ora certo Verstappen non si fermerà una sola vittoria come Pastorone, ma chi lo sa, insomma, la storia dirà, caro Gente, la storia. Certo, dirà. Certo. Intanto il dato politico è che le due Mercedes si bocciano a vicenda. Lauda mi pare abbia detto tutta colpa di Hamilton, chiudendo così il capitolo e la vicenda. Aggiorniamo le notizie sul traffico, c'è una coda sulla Pero Coronato, potete immaginare perché uscendo dall'area distributore Rosberg ha chiuso Hamilton siete in fila sulla Pero Cormano, sappiate che sono il Re Nero e il socio di Leonardo DiCaprio che stanno facendo il solito casino. Ma cosa vuoi che ti dica? Allora, da un punto di vista formale hanno avuto ragione i commissari di gara che hanno liquidato l'incidente come un episodio di corsa, no? Sì. Io credo che ci sia invece una situazione psicologica molto pesante, perché allora Hamilton un'altra volta ha sbagliato la partenza pur essendo in pole. Sì. Quando si è accorto di averla cannata cambia traiettoria tre volte nel tentativo di tenersi dietro Rosberg e non è il massimo della lealtà. Rosberg lo passa lo stesso, però a quel punto è Nico che ha, come hai fatto ascoltare prima, un problema con il manettino del volante e quindi lascia lo spazio al nero per buttarsi all'interno, al che Rosberg cosa fa? Gli chiude la porta in faccia come se si trattasse, voglio dire, di un ferrarista ecco, qualunque. Allora io non so come faranno a governare questa situazione in futuro in Mercedes, perché ormai è chiaro a tutti, anche voglio dire dal linguaggio del corpo, quando hanno parlato dopo il fattaccio, no? Non si sopportano più, non si reggono più, hai capito? Sì. Perché poi hanno la consapevolezza, te lo dico troppo perché io sono ferrarista, di avere anche quest'anno una macchina nettamente superiore ai mezzi della concorrenza. L'unico rivale di Rosberg per il titolo è Hamilton e l'unico rivale di Hamilton per Rosberg. Il titolo è Rosberg. E questo però ci porta al viandante bulgaro. Se un viandante bulgaro ascoltasse tutti i convocati, meravigliosa trasmissione di Carlo Genta, no? Cosa si chiederebbe oggi? Posso andare avanti? Sì. Sì. Si chiederebbe il viandante bulgaro, ma se la Ferrari non vince, quando due Mercedes sono sulla ghiaia dopo 300 metri, quando avremo la soddisfazione che insomma attendiamo da tanto tempo? Se lo è legittimamente domandato anche uno che non è un viandante e non è nemmeno bulgaro e ha un maglioncino blu e si chiama Sergio Marchionne. Però posso dire una cosa, questa volta a beneficio di Sergione con Seisao Marchionne, che mi è molto piaciuto, perché tu sai meglio di me che alla vigilia di questo Gran Premio, siccome siamo in Italia, no? La logica calcistica è allora qui le cose non vanno bene, ma potrebbe saltare l'allenatore, inteso come Tyrone Mauri arriva bene, no? Perché si ragiona così dalle nostre parti, certo. Come se la Formula 1 non fosse tecnologia, ma fosse lo spogliatoio, no? Allora metti Zidane al posto di Benitez, i giocatori vanno d'accordo dopo. No, non funziona così. Marchionne è stato bravo perché ha detto ieri, prima della corsa, attenzione, sono tutte stupidaggini, noi dobbiamo continuare a lavorare con gli uomini che abbiamo, perché sennò insomma non ne usciamo. Sì, però anche ha detto tra Monte Carlo e Canada carta canterà. Sì, ho capito, ma non ricominciare anche tu. Eh no, mica io, l'ha detto lui. Ma sì, ho capito, ma è giusto che il presidente dica che si aspetta quello che tutti si aspettano. Il problema però, ma veramente, c'è, purtroppo devo dare la risposta subito, sì, c'è qualcuno che crede che basti far rotolare qualche altra testa, no? Prendere il quarto team principle, come dite voi che avete studiato, in due anni e si torna a vincere. Allora io vi do la soluzione. Sapete chi è il perfetto team principle per la Ferrari per battere subito la Mercedes? Harry Potter. Ah, beh, prendete Harry Potter. Qui mi sembra che non si voglia capire la realtà della Formula 1. A me dispiace, perché non è che uno è contento, la Ferrari non vince neanche quando le Mercedes sono fuori, perché la macchina, almeno Barcellona, aveva dei limiti abbastanza evidenti. Sì. E non si può essere felici, però non si può neanche immaginare di ribaltare questa cosa così d'amblè. Cioè, l'anno scorso la Mercedes ha vinto 16 Gran Premi su 19. No, ma sono d'accordo, Leo. Il problema è che la situazione non è molto diversa da quella dell'anno scorso. Allora, l'anno scorso la salutammo tutti con grande entusiasmo, no? Con una competitività ritrovata della Ferrari, cosa che nessuno si aspettava a quei livelli, diciamoci la verità. A quest'ora della stagione eravamo contenti, la Ferrari aveva già portato a casa, ti ricordi la storia di un Gran Premio e siamo felici, quattro Gran Premi al paradiso, tutte queste cose. È evidente che ti aspetti una stagione dopo un'estate di sviluppo e con una macchina che sulla quale si è lavorato immaginando nella giusta direzione, ti aspetti qualcosa di diverso. Invece è la stessa identica situazione. Allora, io sulla tua analisi sono d'accordissimo. Tutti ci aspettavamo che la Ferrari fosse più vicina alla Mercedes, più competitiva, e questo, per quanto abbiamo visto finora, non è accaduto. Certo. Perché ieri questi si sono eliminati nella loro zuffa americana, ma che in precedenza aveva sempre vinto. No, quindi questo che tu hai detto è correttissimo. Io contesto che la soluzione sia quella di fare dei ribaltoni. No, no, ma su questo siamo d'accordo. Io penso che si debba dare fiducia, in questo caso arriva bene, a chi sta lavorando lì. Sicuramente ci sono delle cose da correggere, perché questa macchina che si chiama SF16H, e tu mi chiedi per cosa sta H? Per cosa sta H? Hai visto mai? Perché insomma l'idea era che potesse essere quella buona, hai capito? Sì. E invece prendiamo atto, per ora quantomeno, che non è così. Io sono sicuro che in Ferrari sappiano cosa c'è da cambiare. Ribadisco, non sono convinto che la via maestra sia quella di cambiare l'allenatore, d'accordo. Di un'ennesima rivoluzione. I piloti li abbiamo, lasciamelo dire, perché io ormai sono stato assistito solo da gente in queste stagioni a sostenere appunto che Raikkonen è ancora fortissimo, è secondo nella classifica iridata dietro Rosberg, ha una continuità di rendimento strepitosa perché è andato sul podio tre volte, nelle altre due gare una gli si è rotto il turbo e in Cina per il contatto con Vettel era ultimo, dopo il primo giro riuscì ad arrivare quinto. Vettel non si discute. Bisogna cercare di trovare, meglio di sistemare, tutti i tasselli per completare il mosaico perfetto. Però io lo so, guarda, è impopolare. Guardate che Schumacher e Ferrari, era Schumacher, ci ha messo 5 anni. Sì, sì, ma lo ricordiamo poi, bene. Poi se mi guarda, Leo, l'importante è non sbagliare strada, perché sappiamo bene come i miglioramenti siano estremamente lenti e progressivi. Per me è un punto di riferimento, voglio dire, il mio Dostoevsky delle onde radiofoniche. Se vi volete sentire dire che la Ferrari va a Monte Carlo e stravince, e io se volete ve lo dico. Ma no, poi no, non diciamolo, passate ad altra, ad altre trombe. Come faceva di Chiarino Schese quando imitava Pastore, il conduttore del telegiornale unico, mi dicono che non è vero, ecco, allora, io se volete ve lo dico. No, ma ci hanno pensato già loro, sai, vedi Leo, l'altro tarlo è questo, ci hanno pensato già loro a cominciare da Sergione Marchionne a inizio stagione a dire già in Canada competitivi, già dall'inizio competitivi in Australia. No, lo so. Però è così che si crea pressione e poi la gente si aspetta che tu sia competitivo, no? Quello è questo il problema. Un errore strategico. Moltiplicate le aspettative che poi diventano ansie, ignorando la realtà. Quindi, caro gente, in borsa tu puoi con un annuncio particolare far salire un titolo anche del 10% dalla mattina alla sera, ma in Formula 1 non funziona così. No, non funziona così, ma penso che loro signori lo sappiano bene, quindi rimane. Funzionato così in Formula 1, ci sono i cicli, sono i treni della tecnologia che se li perdi poi dopo devi rincorrere, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, io rimango ferrarista, bisognava vincere e non si è vinto. E quindi il rammarico. Non ti dice mai bene niente, Carlo, perché ieri ha forato una Red Bull a un giro dalla fine, era quella sbagliata. Ha forato Ricciardo, dimmi te, con tutto il bene. Dai, lascia stare. Con tutto il bene che io voglio, The Chosen One, no? Al prescelto. Sì, tu dici, se forava lui, ha preso tutto dalla mamma, quello che vuoi. Ma fuori la tu, sta ruota, e via! No, poveri, non fare il cinico, Leo Torrino, dai! Ma ho capito, ma dai, ma è stato ma bello così! T'avrai pensato agli ultimi giri, no? No, allora, io no! No, non alla foratura, fammi finire. Raikkonen ha il doppio degli anni di Verstappen, suo padre, no? Sembrava nel vecchio Il Bambino, la canzone di Guccini, no? E io, mentre si avvicinava alla bandiera, scacchi, tantissimi complimenti a Max e così via, è venuto un flash, ho detto ragazzi, ma se questo Verstappen è ancora in pista d'età di Raikkonen, nel 2036 Genta fa ancora delle trasmissioni dove dice Verstappen grandissimo campione tra 20 anni. Quindi voglio dire, quello che abbiamo visto ieri grazie al ragazzino è assolutamente straordinario, certo. È qualche cosa che fa già parte della leggenda della Formula 1. Questo sì, se non altro dal punto di vista statistico. Leo, grazie, ti abbraccio fortissimo e ci sentiamo alla prossima. Grazie, Leo Turrini. Ciao. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, dica. Eccomi qua. Buongiorno, intanto vabbè, soliti complimenti. Grazie. Veramente, perché ve li meritate, se no non l'avrei neanche detto. Grazie. Detto questo, invece vorrei puntare sulla faccenda di Conte. Sì. Conte nazionale, io da quando c'è Conte la nazionale la seguo ben poco, poi sono genuano, la seguo ancora meno visto che non ci sono giocatori della mia squadra. Ma detto questo, vorrei specificare solo una cosa: che Conte e Alessio, bene male, tra su e giù, se la sono cavate, eccetera, eccetera. Mi puzza un po' della questione, sì, che è un'altra situazione con Stellini, che invece si è anche meritato la squalifica, e faceva parte comunque già all'epoca nel Siena, sia con Conte, era suo secondo, no? E lui ha dichiarato, comunque è stato condannato per quello che ha dichiarato Stellini, lui ha dichiarato che comunque Conte era ben informato dei fatti, tutto un po', comunque Stellini si è preso la sua condanna, Conte sa, lì hanno deciso quello. Lì hanno deciso i giudici, cioè io sono dell'idea di Pardo, poi possiamo dire quello che vogliamo, ma le sentenze si rispettano. In questo caso ci sono dei giudici della Repubblica Italiana che hanno detto che nel caso di Conte, per cui erano stati, il PM aveva chiesto sei mesi, non il fatto non sussiste, non è stato commesso reato, e quindi possiamo pensarla come vogliamo, la sentenza è questa. Rosario, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Genta. Io le ruberò pochi istanti anche per una questione di rispetto nei confronti di altri ascoltatori. No, poi andiamo, più che altro andiamo al giro, andiamo a fare un salto al Giro d'Italia. Dica. Ah, perfetto. Allora io intanto volevo invitare il tifoso juventino di Spoleto a preoccuparsi di festeggiare il suo quinto scudetto consecutivo piuttosto che a farci abbassare le orecchie a noi tifosi napoletani, arrampicandosi sugli specchi, facendo un confronto tra Nordal e Higuain che nemmeno si regge in piedi, visto insomma la diversità dell'epoca. Sì. Comunque, a parte questo, e teniamo anche conto del fatto che io credo sia molto più facile per un arbitro fischiare un rigore dubbio a favore della Juve piuttosto che dell'Empoli, dell'Atalanta, del Chievo, del Catanzaro. Ciò non toglie che la Juve meritatamente abbia vinto lo scudetto, lo dico da tifosissimo del Napoli. Sì. Però la mia domanda era questa: secondo lei il Napoli non ha perso la possibilità di vincere lo scudetto nel momento in cui il Bayern di Monaco al 92esimo ha pareggiato la partita e successivamente vinta 4-2, cioè ha tolto la possibilità alla Juve di andare avanti e quindi di dare tutta se stessa nel campionato? Guardi, io per la verità credo che il Napoli abbia perso lo scudetto nel momento in cui Zaza ha segnato quel gol alla fine di una partita che era da pari e patta. Credo che quello sia stato il momento chiave, più dell'eliminazione della Juventus ad opera del Bayern di Monaco. Quindi questa è la mia idea, a sensazione questo è successo. Una volta operato il sorpasso, la Juventus non l'hai presa più, complice anche il fatto che aveva appunto soltanto quel traguardo, a quel punto quel traguardo davanti. Buongiorno Pier Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao. Oggi si riposa al Giro d'Italia dopo la crono di ieri con Brambilla, che si è tenuto addosso per un secondo la maglia rosa e coronerà domani il suo sogno, cioè quello di pedalare il rosa in mezzo al gruppo, come ci dicevi tu. Ma io vorrei da te un voto su questi primi 10 giorni di Vincenzo Nibali. Guarda, io credo che il voto per Vincenzo sia 7. Sì. Perché prima del giro avevo parlato proprio con lui e mi aveva detto: io voglio arrivare alla tappa di Sestola, quindi dopo la cronometro, lì pronto a giocarmi questo Giro d'Italia con Valverde e Landa. Sì. Perché aveva sempre citato questi due uomini. Poi le sorprese sono dietro l'angolo, una sorpresa bellissima ha la maglia rosa, come hai ricordato tu, ed è Gianluca Brambilla. E però gli uomini che sono più attesi per il successo finale di Torino sono questi tre: Nibali, campione d'Italia in carica, un giro già vinto e quindi il bis a portata di mano, e poi il giovane Leandro Valverde che ha 36 anni fa il suo primo giro d'Italia, e Mikel Landa, l'ex compagno di squadra di Vincenzo Nibali, che dopo essere arrivato terzo ha tutto per poter far saltare il banco. Detto questo, lui ha vissuto una giornata non buona e lì mi ero anche un po' preoccupato, lo ammetto, a Roccaraso, si è fatto così probabilmente prendere la mano, come racconta lui, se mi gridano all'orecchio. È vero che io non sono un corridore telecomandato, sono uno che si fa guidare molto dall'istinto, però se io all'auricolare mi sento gridare parti, parti, parti, io sono in mezzo al gruppettino, parto perché dico probabilmente i miei tecnici hanno visto in difficoltà qualcuno. E lì probabilmente è arrivata, anzi senza probabilmente, è arrivata una comunicazione errata. Come d'altra parte, onestamente, Martinelli ha ammesso a fine corsa, a fine della tappa, ha detto abbiamo sbagliato. Hanno sbagliato a dare una segnalazione e soprattutto a non darne un'altra, perché sì, un'altra cosa importante era quella di dire occhio Vincenzo, prova ad andare via, ma stai attento perché c'è il vento contrario. Certo. E invece non hanno dato nessuna indicazione in questo caso. Detto questo, lui ieri ha fatto un ottimo cronometro, perché tutti dicono ma è andato come Valverde, no. Sì. Vincenzo è andato più forte di tutti i diretti avversari in salita, poi in discesa è andato giù prudente. È andato giù prudente, complice anche il maltempo. E probabilmente ieri la notizia è stato il fatto che, anche complice il maltempo, Landa ha tenuto, rendendo questo Giro d'Italia estremamente incerto. Ma noi ve lo racconteremo e ve lo raccontiamo ogni giorno. Tanto ringrazio Pier Augusto Stagi. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Auguri, buon lunedì.